voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. E cosa manca a una donna nella vita 99 volte su 100? L'amore! Oh. È dovenosa, sorella? Eccomi pronto. Grazie. Thank you. Lei si chiama Shara Worden, ma ha deciso di usare uno pseudonimo per la sua carriera artistica. My Brightest Diamond è il nome che ha deciso di utilizzare e il titolo del suo album d'esordio Bring Me the Workhorse, che esce per Asthmatic Kitty, è uscito da pochissimi giorni. Già collaboratrice di Serfian Stevens, a volte sono quasi ridicole le biografie. Nipote di un chitarrista evangelista e viaggiatore, figlia di un campione nazionale di fisarmonica e di un organista di chiesa. Questa è la sua bio in pillole. Ora invece in eclettica è la volta di Ramona Cordova. Sometimes when you talk about your life as you live it out, your eyes want to scream and shower at lies that were given out, and you Piocco come se fossi Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra. Lo credo che non capisci, frenetico. I think I'm getting lonely, oh, what I see. through. Seagull è il nome della band ascoltata in questi minuti da Lincoln, Nebraska. Eagle Seagull con un asterisco nel mezzo, è un vezzo. Un album uscito per la Lado esattamente a metà settembre, il 5 di settembre, dal quale ci siamo ascoltati un brano dal titolo lunghissimo, la traccia numero 6 delle 11 contenute all'interno dell'album Your Beauty is a Knife I Turn on My Throat. Vi ricordo le date per cui ci sono in palio biglietti, le date dello Zero Music Club di Azzano San Paolo di venerdì 13 Bugo e venerdì 20 Marta sui tubi. Vi ricordo l'esistenza di myspace.com/eclettica, del podcasting, della lista nera, e iscriversi è facile mandando un mail a giulio@radiorockfm.com e anche la presenza sul satellite. Lì l'ascolto è veramente di alta qualità. Se poi al decoder attaccate anche il vostro impianto stereo di casa, come succede a casa mia, vi assicuro che l'esperienza non è male, non è male, si sente proprio proprio bene. Ora vediamo le prove di More Music di cambiare, di spostarsi rispetto al genere a cui fin dagli inizi è stata legata, e questo si è rivelato un abbraccio mortale col passare degli anni. Quando una band viene troppo identificata con un genere, figuratevi quando un'etichetta viene troppo identificata con un genere, se non riesce da questo a smarcarsi rischia veramente di morire se non riesce a trovare nuove strade. Vediamo se per esempio la strada indicata dal disco di F.S. Bloom può essere quella giusta. Per esempio anche noi, ascoltandolo, richiedendolo, comperandolo, possiamo dare indicazioni alla More Music. Summer Kling, il titolo di questo disco dell'artista di Berlino, che già vi ho detto fare di nome F.S. Bloom, l'ha scritto girando in furgone completamente da solo per il sud dell'Europa, poi tornato a Berlino, ha messo assieme in maniera abbastanza casuale strumentisti che gli servivano, ed ora, visto che il disco è uscito, invece fa le cose seriamente, ha messo in piedi un trio e con questo porterà dal vivo le sue canzoni. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 11, ce ne sono veramente tante all'interno di questo disco, se non conto male, visto che non sono numerate dovrebbero essere perlomeno 16. La traccia numero 11 ha per titolo Sicht. Moglie di Molcho morì alle 4 del mattino e con tutto se stesso Molcho si sforzò di individuare il momento preciso di quella morte così da inciderlo dentro di sé, perché lui voleva ricordare. Per settimane, perfino per mesi, dopo, quando ripensava a lei, gli pareva di essere davvero riuscito a fondere il momento del suo trapasso, se lo si poteva chiamar così. Trapasso. Molcio era incerto. In una realtà chiara, piena di vitalità, non solo pensiero e sentimento, ma anche luci e voci, come il colore purpureo della stufa o quello verde e fosforescente delle cifre dell'orologio elettronico, o il fascio di luce gialla che fluiva dalla porta del bagno e creava grandi ombre nel corridoio, e forse anche la luce del cielo, una luce rosea o eburnea emanata dalla fitta tenebra. Questo era l'un po' incerto incipit di 5 stagioni di Abraham B. Yehoshua. Our Sophomore Year, e questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, che è proprio la traccia, fra l'altro, che chiude questo nuovo disco per la Ghost Records, disco che arriva dalla città di Teramo, a nome Ivor and the Driver. Questo è il progetto Samples and Origins, è invece l'album, e il titolo del brano, già ve l'ho detto. Giulio Cappardoni è quindi arrivato anche quest'oggi a quelli che sono i saluti definitivi per quanto riguarda la settimana in corso. Dal venerdì notte tutta la settimana è disponibile quasi sempre in podcasting, se non ci sono problemi tecnici per il trasferimento dei file sul server, e vi lascio però con un ultimo brano. Vi auguro alla prossima con un ultimo brano, un brano che già ci siamo ascoltati proprio nella prima settimana di Eclettica, un brano estratto da Slappers, quello che è il nuovo disco di Danny Siciliano, che esce per la K7, la musa di Matthew Herbert, così viene definita, ma ormai si sta costruendo una più che dignitosa carriera solista. Da questo disco che già vi ho detto si intitola Slappers, con i saluti, con alla prossima, ci ascoltiamo Why Can't I Make You High. Put your things back, you don't need me. I hate working off your no sleep. Take away all my lengthy cares. 'Cause I've been here too long to be your scare. When you're you have put yourself down.